qualunque aspetto del comportamento di una persona di cui deve rendere conto alla società è quello che concerne gli altri. Sopra se stesso, sul suo corpo e sulla sua mente, l'individuo è sovrano. Festival sociale delle culture antifasciste. Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno, Bologna, Parco delle Caserme Rosse. Teatro, musica, tavoli tematici, mostre, dibattiti, proiezioni, libri, free camping, buona cucina, autogestione, amore e fantasia. Per info e contatti, fest-antifa.net.